Cominciamo e comincerei lentamente, così diamo il tempo a chi ha fame e sta mangiando di tornare. E presentiamo un fumetto, questa è la particolarità ed è la cosa che intriga sul transessualismo, cioè è una storia che Fabio Sera ha riportato in fumetto ed è una di quelle storie importanti, preziose, che fino ad ora sono rientrate in altri tipi di lavoro, in altro tipo di ricerca, in altro tipo di visione. Prima c'era Laura Schettini col suo lavoro che io trovo eccezionale, importantissimo, di ricostruzione storica sul transessualismo, sull'identità di genere, sulla questione transessuale si sta parlando, si sta dicendo, si sta studiando, si sta approfondendo e a mio avviso si stanno mettendo insieme tutti i pezzi, o almeno tutti, forse è esagerato dirlo, ma i pezzi di un mosaico prezioso, un mosaico che fino ad ora, come dire, non c'è stato, è stato scompaginato, tutte le tessere di questo mosaico sono state disperse. Perché, è un punto interrogativo, perché il transessualismo, l'esperienza trans non rientra nei canoni, non fa parte del senso, della costruzione di senso della nostra cultura, del nostro mondo, per cui è qualcosa di altro, qualcosa di sconveniente, qualcosa di criminale, qualcosa di, appunto, di cui non si deve e non si può parlare. Laura Schettini prima ne ha affrontato la questione e ha tirato fuori diciamo, dalle nebbie della storia, dal vuoto della storia, questa sua ricerca. È andata a spulciare negli archivi, è andata a spulciare sui giornali, sui documenti della fine 800, inizio 900, quando comincia a prendere forma questa esperienza. Comincia a prendere forma anche perché, come dire, ci sono delle nuove possibilità, potremmo vederle come tali, non lo so, la fotografia, Laura ne ha raccolte diverse, i giornali che hanno cominciato ad avere una tiratura particolare, quindi diventano più di massa. Viene fuori man mano e prende forma questa esperienza, questo percorso che fino ad ora non c'era, non che non c'era, non esisteva, era stato negato. E quando veniva fuori era recluso, rinchiuso e messo, costretto negli ambiti della psichiatria, della malattia mentale. Io prima ho fatto una domanda a Laura, dice, ma da allora a oggi cosa è successo, cosa c'è stato? In effetti la domanda voleva essere altro, voleva andare a stuzzicare un po' la riflessione, perché noi abbiamo dei vuoti storici che noi come associazione cerchiamo di riempire, ma che comunque esistono, perché è un'esperienza negata, un'esperienza, come dire, che si è persa e a mio avviso è un'esperienza preziosissima che noi cerchiamo di mettere insieme. Fino ad ora ci sono state ricerche, ci sono stati soprattutto lavori scientifici, la psicologia, la psichiatria, la criminologia, su questo si sono adoperate tantissimo, hanno prodotto. Però, come dire, è una produzione di parte. Dagli anni 60 in poi c'è cominciata ad essere altra produzione, chiamiamola politica, la definirei, no? Di tirar fuori dalle nebbie della storia, io ripeto, rimarco la questione della nebbia perché di questo si tratta, i pezzi di questo mosaico, i fili di un discorso che non è che si era interrotto, è stato sempre negato, non c'è mai stato. E di questi lavori più o meno importanti ce ne sono stati diversi, più o meno noti, più o meno conosciuti, più o meno importanti. L'anno scorso Fabio mi chiama e mi propone l'introduzione, anzi la postfazione al fumetto, un corpo differente. Lì per lì mi stuzzica la questione, perché dico, ma c'è un fumetto, quindi il punto di vista è altro, il contributo all'informazione, all'approfondimento è altro, ed è fatto in una maniera molto più creativa, diversa dai lavori che ci sono stati fino ad ora, e questa è la cosa che mi ha stuzzicato, perché altrimenti lo dico molto tranquillamente, non me la sentivo di scrivere, di farlo, perché era un periodo troppo pieno, troppo incasinato. Però proprio perché è una forma differente, e ripeto, troppo differente, che ho accettato, anche perché la storia era di una storia di una persona e direi di un personaggio che ha fatto epoca, ha fatto la storia in Italia, la romanina, che è considerata, questo poi lo approfondiremo, a torto a ragione, la prima transessuale in Italia. In effetti è stata la prima transessuale che ha fatto sentire la propria voce, che ha un po' urlato al mondo il suo modo d'essere, la sua identità, e per questo fu colpita abbastanza severamente. La romanina fu mandata al confino per 2 anni, dall'allora 3 anni, dall'allora Pierluigi Ligna, che è morto 3 giorni fa esattamente. Fu mandata al confino perché considerata soggetto socialmente e moralmente pericoloso. Ma fin qui la storia. Aggiungo un pezzo di storia mia che riporto nella postfazione. La romanina fu mandata al confino in un paesino a fianco al mio, si chiama Volturino, e in un periodo dal 69 al 71, giusto? In un periodo in cui io avevo 12 anni, ecco, si risvelo anche la mia età, e questa cosa, la presenza di questa persona in questo paesino fece discutere, fece parlare, giustamente direi e chiaramente. Per cui la voce girava non nei canali ufficiali, quelli che conosciamo oggi, non c'era ancora Facebook, non c'erano tutti questi strumenti, ma le voci comunque giravano, e a scuola, nella classe mia, tra gli amici, girava questa voce da Volturino, quindi un paese a fianco, c'è l'uomo donna. E dico, ma cosa mai sarà quel mostro? Non capivo, però nello stesso momento tiravo fuori quelli che erano diciamo le mie paure, i fantasmi di un adolescente che fa i conti, proprio perché adolescente, con la propria identità di genere, con la propria sessualità, col proprio modo di stare al mondo, con i suoi sogni, con i suoi desideri, e con i conti che non tornavano. I conti che non tornavano, parliamo di fine anni 60 e inizio anni 70, perché magari oggi forse tornano un po' di più, ci sono dei punti di riferimento, ma all'epoca non c'erano, e specialmente per un ragazzino tale ero adolescente, il fatto che nel paese a fianco c'era un uomo donna non mi tornava e mi stuzzicava questo mio non ritorno con una parte di me. Anni dopo, molti anni dopo, incontrai la romanina, il percorso fu per me molto più chiaro, ma lo fu anche per molte persone. siamo diventate grandi amiche, lei vive a Bologna e io dico è una splendida signora, infatti la postfazione, il titolo l'ho chiamata dalla favola dell'uomo donna al fumetto della splendida signora. E qui, prima di passare la parola a Fabio, riprendo un po' il filo del discorso che prima chi ci ha preceduto, Laura e Cristina, avevano ripreso, no? È una storia che è stata frantumata, è stata negata, che noi, e io ci tengo molto a questo, faticosamente stiamo cercando di mettere insieme, di riprendere il filo del discorso, di ridare un senso e un significato a una storia che senso e significato non l'ha mai avuto perché gli è stato negato. Quindi tutto questo fa parte di questa ricostruzione, perché non ci può essere, a mio avviso, emancipazione, non ci può essere liberazione, non ci può essere crescita se non c'è una ricostruzione di una storia. Noi non siamo calati da Marte all'improvviso, come qualcuno pensa o come spesso si fa passare in epoca moderna o postmoderna. Le persone trans, il termine è moderno, ci sono sempre state. Laura Schettini prima l'ha citata, ha citato parecchi esempi. È che dagli anni 60 in poi questa esperienza comincia a essere visibile e comincia a essere vivibile, nonostante i problemi, nonostante la repressione, nonostante i casini. E oggi qui ne parliamo. Il fumetto è una forma, ripeto, di espressione, una forma artistica di comunicazione nuova, nuova per quanto riguarda l'esperienza transessuale. Passo la parola a Fabio Sera, proprio partendo da questo, no? Chiedendogli da come e dove è nato lo spunto per costruire questo lavoro carinissimo. Ringrazio Porpora per l'introduzione. Volevo intanto darvi qualche dato sulla vita della romanina, per chi comunque non conosce la storia. Anzi, in realtà parto da come io ho conosciuto la sua storia. Ho conosciuto Romina, come comunque ora si fa chiamare. Romanina è il soprannome con cui veniva chiamata a Firenze negli anni 50-60. L'ho conosciuta come, in realtà, in una veste molto quotidiana, come vicina di casa. Siamo condomini. E pian piano, con insomma le varie voci di palazzo, ho iniziato a capire che dietro questa splendida signora, come dice Polpa, c'era un vissuto molto, molto importante, c'era una vicenda piuttosto tortuosa anche e difficile. Quando ho scoperto che aveva scritto un'autobiografia che è uscita nel 78, se non sbaglio, e che si intitola Io la Romanina, l'ho letta e ho quindi, diciamo, scoperto tutto un mondo che a me era totalmente sconosciuto. Quindi Romina nasce in provincia di Pisa all'inizio degli anni 40, poi si trasferisce con la famiglia molto giovane, famiglia molto povera, a Firenze, e quasi da subito, diciamo, inizia appunto a essere chiamata la Romanina per il suo atteggiamento femminile, e fin da giovanissima, da adolescente, inizia a vestirsi da donna, e questo da subito le crea ovviamente molti problemi a livello con la giustizia, quindi difficoltà a trovare lavoro prima, tant'è che per un periodo lavora in un circo con dei numeri con uno spettacolo di cabaret, e poi finisce a fare la vita della strada, e però continuamente con questi problemi con la polizia, quindi le multe per offesa alla pubblica decenza, il tribunale, il carcere, che affronta più volte, in cui sconta vari anni di detenzione, fino ad arrivare proprio alla condanna di Confino, quindi una condanna di 3 anni in questo paesino sperduto della Puglia, Volturino di Foggia, e questo appunto nel 67, anzi nel 69, prima di partire per Volturino, prima di scontare la sua pena, raccoglie i soldi per l'operazione, quindi va a Ginevra e effettua l'operazione per il cambiamento di sesso, quindi quando arriva a Volturino è effettivamente donna. E alcuni anni dopo otterrà anche il riconoscimento di questo cambio di sesso. E la cosa interessante della sua storia, come diceva Porpora, non è tanto, cioè, appunto, non è stata la prima Romina a effettuare questo percorso, ma è stata la prima a non farlo di nascosto. Cioè, comunque avrebbe potuto tranquillamente fare questo percorso, diciamo, nascondendosi, cercando di fare poco rumore, conducendo la sua vita di nascosto. Invece comunque non accetta di nascondersi, quindi la sua storia diventa una storia comune, diventa una storia conosciuta e per certi versi anche una bandiera, diciamo così, e segna delle tappe che poi diventeranno quasi tappe obbligate, comunque apre una strada che anche grazie a lei sarà più facile percorrere, comunque si conoscerà di più, quindi scrive un libro, gli lascia interviste, eccetera. E riagganciando a quanto diceva Porpora sul fatto del raccontare questa storia con un fumetto, ci si potrebbe in effetti chiedere perché, visto che comunque appunto esiste un libro, esiste anche uno spettacolo teatrale che è stato tratto da questo libro, esiste un documentario girato all'inizio degli anni 70 da Bolognini e Vescovi. Ho sbagliato carica. Quindi una storia che si conosce bene o male, perlomeno nell'ambiente trans, nel movimento storico. Però ecco, diciamo che innanzitutto io leggendo la sua autobiografia da subito mi sono, diciamo, da fumettista ho trovato che fosse una storia fortemente con dei forti momenti di, diciamo, visivi molto forti, per cui fin da subito non potevo fare a meno alcune scene di vederle già in una costruzione di una tavola fumetti come potevano essere. Penso soprattutto alla scena, ad esempio, del circo, del circo, oppure a un certo punto c'è una scena in cui lei improvvisa uno striptease in carcere. E quindi ecco, penso che il linguaggio del fumetto potesse riraccontare questa storia un'altra volta dando qualcosa in più o comunque qualcosa di diverso, quindi sicuramente magari manca molto l'aspetto, a parte la brevità ovviamente, che ho dovuto comunque anche per limiti di tempo e di spazio, quindi la storia si concentra soltanto sugli anni 50-60, si ferma prima della partenza per Ginevra, per l'operazione. Ma poi comunque ho cercato comunque di raccontare i fatti così come erano, senza approfondire a livello psicologico, ho cercato di non fare alcun tipo di introspezione psicologica, perché per non cadere comunque in stereotipi, banalità, visto che comunque sarebbe stato difficile per me riuscire a entrare in questo modo nella sua vita. Ecco, quindi da questo punto di vista magari può raccontare qualcosa in meno, però forse gli può dare qualcosa in più a livello di fascinazione visiva. E poi, ecco, insomma, mi piaceva questo fatto di dell'incontro, insomma, come diceva Paul Pryor, è la prima volta, penso, perlomeno sicuramente in Italia, che si racconta del mondo trans a fumetti. E devo dire che, tra l'altro, appunto, attraverso questo fumetto ho avuto la possibilità comunque di conoscere Porta, di conoscere il MIT, di essere qui stasera, di essere a Gender Bender, il festival di cinema trans che c'è a Bologna, ma al tempo stesso ho presentato il fumetto ad esempio a Billboard Bull, al festival di fumetto di Bologna. Quindi questo mescolare anche pubblici diversi che magari non si sarebbero incontrati, e dal mio punto di vista è importante, perché comunque, ecco, penso che questa sia una storia che non appartiene solo alla storia del movimento transessuale, ma appartiene alla storia d'Italia in quanto un pezzo di questa storia, e quindi è anche giusto, cioè, ovviamente non solo questa storia, ce ne sono molte altre, però io ho incontrato questa, è giusto che venga raccontata ancora e ancora, perché entri, diciamo, nell'immaginario collettivo. E ecco. Rincalzo. Allora, è chiaro, Fabio l'ha detto, ci sono tante storie. La questione è farle venire fuori queste storie, perché fino ad ora a noi è arrivata una storia, quella che ci fanno leggere a scuola, sui libri che studiamo, che di solito è la storia dei potenti, la storia delle guerre, la storia di tutto questo, ma non è assolutamente la storia delle persone, della vita vera delle persone. E io credo che far emergere quella storia, che molti la considerano una storia dal basso, è importantissimo e fondamentale, perché attraverso l'esperienza delle persone, attraverso la storia delle persone, riesci a leggere una storia più generale. La repressione che ha riguardato la romanina negli anni 60 e 70 è un pezzo di storia d'Italia, non è un pezzo di storia della romanina. Cioè l'aggressione a lei, il confino, riguardava la storia dell'Italia. Cioè il fatto che non si poteva fare delle cose, si era considerati soggetti socialmente e moralmente pericolosi appena, non solo quelli che intervenivi sul tuo fisico, quindi lo trasformavi, ma anche sulla tua estetica. In altre storie che io ho raccolto, le trans di quegli anni, cioè bastava una scarpa, una scarpetta che non era consona al tuo sesso per finire in carcere, perché c'era questa legge che c'è tuttora, prima è stato posta la domanda nell'incontro precedente sul travestitismo. Il travestitismo è terribile, con l'articolo 85 che viene tirato fuori periodicamente. Ci sono dei momenti che è dormiente, sta lì, e dei momenti che le questure lo usano. Quindi non è mai venuto meno l'articolo 85, cioè, e oggi è punibile con una multa. All'epoca succedeva che quando ne accumuli diverse di multe, e accumuli una serie di reati, quelli che venivano considerati reati alla morale, accumulavi, e poi si trasformava in altro, si trasformava appunto in carcere, prima di tutto le celle di sicurezza, in confino e in altro. Voglio aggiungere un particolare alla storia della Romania, perché quando si va a leggere la storia, appunto, ci sfuggono una serie di particolari. Quando la mettiamo insieme, invece, ne vengono fuori tanti altri. Allora, la Romina si opera a Ginevra nel 1965. All'epoca non c'era un accanimento su questo, perché i casi non erano tantissimi, e di solito le persone lo facevano in sordina, quindi non lo pubblicizzavano, non se ne parlava, non era un caso, no? La Romina lo fa venire fuori, prima di lei altre si erano operate e paradossalmente, e questa è la questione strana, riuscivano anche a cambiare il nome. Perché siccome non esisteva il problema, quindi non veniva, non era una questione pubblica, con un po' di inciuci, direi così, un po' di sotterfugi, paghi l'impiegato, paghi questo, riuscivi a cambiare, a trasformare dei documenti e a cambiare il nome sui documenti, perché poi è quello il problema. La questione che la Romanina fa venire fuori è la questione di tutte quelle persone che avevano cambiato sesso, non in Italia perché non si poteva, di solito era a Casablanca o in Inghilterra o in Svizzera, tornavano in Italia e qualcuno appunto con l'inciuccio, il sotterfugio riusciva a trasformare il nome sul documento, altre rimanevano in quel limbo per cui erano donne a tutti gli effetti, ma sui documenti conservavano tutte le, diciamo, le questioni di prima. La Romanina che fa esplodere la situazione, se ne comincia a parlare, da lì poi le trans, dico le trans perché erano principalmente le trans da uomo a donna, le 2F, che facevano casino, si cominciano a organizzare e sollevano la questione. La prima manifestazione pubblica viene svolta, riconosciuta e documentata, è a Milano nell'agosto del 69, del 79, scusate, quando su un gruppo di trans in una piscina pubblica di Toscalo di Milano si spoglia, resta solo col costume di sotto, dice: voi non ci riconoscete come donne? Bene, noi ci mettiamo il costume da uomo, quindi col seno al vento, e quella fu la prima manifestazione che fece molto molto scalpore e ne parlarono i giornali. Quindi la Romanina, la manifestazione a Milano, cioè tutto questo mise in moto un percorso che culminò il 14 aprile dell'82, quando fu approvata la legge 164 che permette il cambio di sesso. Aggiungo solo una cosa a titolo informativo, che l'Italia era l'unica insieme alla Germania ad averci una legge del genere. Era il lontano 82, dall'epoca non si è più mosso nulla, ma non solo per le questioni trans, ma per le questioni GLBT di genere in generale. Quindi siamo rimasti fermi all'82. Evidentemente 30 anni fa l'Italia politicamente e istituzionalmente era un paese un po' più avanti rispetto a quello di oggi. Certe cose, certi passi si facevano, delle cose si azzardavano, perché evidentemente il clima, la situazione era diversa da quella di oggi. Oggi è impensabile e sarebbe impensabile una legge del genere, e quella legge ha tutti i limiti del tempo, perché una legge approvata 30 anni fa, oggi bisognerebbe rinnovarla, ma la paura delle associazioni, dei movimenti, è che mettere mano a quello si rischia, per come è fatta l'Italia, di perdere anche quello che avevamo ottenuto nell'82. Io mi fermo perché sennò faccio la lezione di storia e tolgo lo spazio a Fabio, perché è sua la serata, è suo il libro. E, prima di farlo io chiederei al gentile pubblico se ci sono domande, perché sicuramente ce ne sono. Usa Gialli in realtà non era Romanina, no, era. Sì. Tu non l'hai detto. Comunque. Rovina. Eh? Sì, va. No, comunque. No, il. No, in realtà non c'è nessuna spiegazione particolare. Diciamo che per questioni editoriali potevo fare una bicromia, quindi un bianco e nero più un colore. Bisognava scegliere un colore e il giallo mi sembrava. Cioè, in realtà appunto mi è stato consigliato, però comunque. Ecco, mi penso che comunque rappresentava bene la storia, insomma, il personaggio, era un colore molto, molto indicato. E, no, devo dire che dunque Romina, quindi appunto, come dicevo prima, dopo aver letto la sua autobiografia, sono andato da lei per chiederle se potevo fare questo fumetto e lei l'ha presa molto bene, da subito, senza alcun problema, anzi era contenta, comunque ha accettato insomma subito e quindi da lì poi è iniziato tutto un periodo in cui io ogni tanto andavo da lei e mi facevo raccontare un po' tutta la sua storia. Lei ha una fantastica scatola in cui raccoglie tutte fotografie, ritagli di giornale che parlano di lei, articoli, e quindi davanti a questa scatola riaffioravano i ricordi, gli aneddoti, tant'è che facevo anche fatica in effetti a stare dietro, perché comunque lei ha tantissimi aneddoti, poi da un ricordo ne nasce un altro. E dopo aver raccolto tutto questo materiale, quindi ho cercato di selezionare alcuni episodi che potessero comunque dare un'idea dei principali aspetti della sua vita, e anche raccontando questa storia ho voluto un po' mantenere questa struttura a episodi, quindi sono vari episodi quasi come fossero dei flashback, dei ricordi che emergono legati un po' da una voce narrante che è la sua stessa voce. E ecco, comunque sì, lei insomma, è stata credo contenta, poi anche quando ho finito il lavoro e poi man mano comunque le faccio vedere un po' i disegni così. Devo dire che tra l'altro uno dei momenti di maggior così gratificazione per me è stato comunque quando, vedendosi nei disegni, mi ha detto che si riconosceva comunque, vedeva il suo atteggiamento, le sue pose, e questo insomma, è stato importante. C'è qualche altra domanda? Direi piuttosto bene, sì. Comunque, vabbè, poi c'è da dire che io ho presentato questo, prima di iniziare a scriverlo, ho presentato il progetto di questo fumetto a un concorso che si chiama Comikazen, il fumetto di realtà, che è un concorso che fanno a Ravenna, e ho vinto il concorso con questo progetto e quindi per questo ho avuto poi la possibilità di pubblicare il libro e di scriverlo. Anche in quell'occasione devo dire comunque è stato accolto bene. La domanda, l'ultima, mi stuzzica, perché in effetti a pensarci bene, no? le storie che ci arrivano quasi al 99,9% sono storie che si basano su una costruzione di senso che io definisco metero-patriarcale, no? dove ci sono i cliché classici, cioè l'uomo, la donna, la brava moglie e il bravo papà, i figli, cioè il famoso dissero felici e contenti, no? Poi gira che ti rigira le favole, quello è, le favole che ci hanno raccontato, che ci sono state trasmesse, ma anche facendo un esempio molto più spicciolo, tutta la pubblicità è basata su quella, non si scappa e non si sfugge. Rompere questa stagnazione, no? Del senso e del significato veteropatriarcale è un azzardo, ma vi avviso è una cosa molto molto importante che va fatta proprio per rompere quell'orizzonte, a mio avviso, piatto, monotono del celeste e del rosa a cui siamo stati abituati, quell'orizzonte in cui poi molta gente, e più passa il tempo più mi convinco che tantissima gente non riesce a starci perché non si identifica, ma semplicemente perché è rigido, non perché non esiste il rosa o il celeste, ma semplicemente perché stare quella linea in equilibrio diventa per molti, e non solo per le persone trans, difficile, perché riporta modelli del tutt'uno, tutt'altro, del famoso se non è zippa e bagnato. Andare a rompere, a scalfire quella linea retta in certi momenti può essere pericoloso, in certi momenti storici, diciamolo. La rovina è finita in Alconchino, in carcere, come tante altre, ma perché l'hanno fatto sul proprio corpo, con la propria vita. Ma questo potrebbe essere anche per chi invece lo riporta quello. Mi viene in mente, non so se Fabio avesse fatto questo lavoro in altri periodi, magari così non saresti finito con te al Alconchino. Cioè, semplicemente per dire che l'operazione di ricostruzione, io torno sulla ricostruzione di senso e significato, perché ci è stata tolta, richiede coraggio, richiede fatica e impegno, che non è semplice, ecco, rimetterlo in discussione. Questo non lo so, in effetti, no, probabile di no. Sì, no, ma questo in effetti è un problema più ampio, la difficoltà di pubblicare, a meno che non paghi tu, in Italia. No, in realtà diciamo che comunque il fumetto sta vivendo un periodo tutto sommato abbastanza felice in Italia, o comunque, o meglio, felice da un punto di vista creativo, non economico, nel senso che nessuno civile, però comunque si raccontano molte storie importanti. Dicevo prima, questo è il primo fumetto che parla di trans in Italia, però ad esempio c'è un altro fumetto molto bello di Sara Colaone, solo sceneggiatore, non mi viene il nome, che senza in Italia sono tutti maschi, c'è per Becco Giallo, in cui si parla comunque sempre del confino per gli omosessuali durante il fascismo. Quindi ecco, in effetti penso che il fumetto è un buon mezzo per raccontare anche storie importanti, e quindi cercare di abbracciare un pubblico magari che altrimenti non ci arriverebbe. Vi ringrazio tutti, quindi sì, fumate qui, no, interessante un po'.